prima di regola. Un'auto nera, intanto, si è fermata sotto un palazzo di costruzione antica in pieno centro storico. L'auto è scortata da altre due vetture simili, ma di colore grigio, le quali si posizionano una davanti e l'altra dietro, quasi a voler bloccare il vicoletto stretto. A presidiare il palazzo c'è un'auto con a bordo due Tarspok che, alla vista delle due vetture, scendono dalla propria e si dirigono verso l'auto nera, consci che sicuramente le tre hanno un legame e quella centrale è la più importante. I due uomini topo, avvicinatisi alla vettura, danno uno sguardo all'interno dell'abitacolo e con i visi quasi meravigliati ritornano a sedersi immediatamente, senza dire una parola, nella loro auto. Un uomo scende dalla prima vettura grigia ed entra in quella di Tarspok. Dall'auto nera escono quattro uomini con passamontagna, mentre un quinto resta in auto seduta centro del sedile posteriore. Gli incappucciati vestiti rigorosamente in nero con giubbotti antiproiettili entrano nel palazzo con passo veloce. Ognuno di loro ha un M110 impugnato a canna giù. Altri due Tarspok fermi davanti ad una porta a piantonare un appartamento stanno fumando e chiacchierano di cose loro. Il primo dei quattro uomini vestiti in nero tira fuori dal taschino della giacca un distintivo e lo mostra a distanza ai due Tarspok facendogli segno di stare zitti e mettersi da parte. I due uomini topo non dicono nemmeno una parola e si scostano dalla porta. Uno dei quattro uomini resta lì a sorvegliare i due Tarspok, mentre gli altri tre, ad armi spianate, entrano nell'appartamento. Pochi secondi dopo, dall'interno della casa si sente esplodere una scarica di proiettili. Ancora qualche minuto dopo, i tre escono dall'appartamento con dei sacchetti neri in mano. Prima di imboccare le scale, il quarto uomo esplode l'ultima scarica contro i due Tarspok, che per la violenza dei proiettili restano appiccicate alla parete per qualche istante. I due uomini dopo scivolano a terra con le schiene che strisciano la parete, come due pennelli impregnati di sangue che disegnano il loro passaggio. La tendina di una finestra di una casa che affaccia nel cortile del palazzo si scosta leggermente mentre i quattro uomini scendono veloci le scale. Beatrice, una ragazza argentina venuta in Italia per studiare e che abita al piano superiore dove è avvenuta la sparatoria, non riesce a dormire quella notte perché è in ansia per un esame che deve dare la mattina seguente. La ragazza è in cucina a prepararsi un matè. La finestra socchiusa della cucina affaccia sul cortile interno del palazzo, da dove su uno dei lati si trova una rampa di scale che porta agli altri appartamenti. Beatrice sente i passi veloci salire le scale e la cosa la lascia stranita. Il palazzo è tranquillo e molto silenzioso di solito e ci vive gente molto rispettosa che fa molta attenzione a non fare rumori, specialmente di notte. Beatrice si era messa a letto prestissimo ed era all'oscuro dell'esplosione alla centrale e di tutto quello che stava accadendo. Non si era nemmeno accorta del rumore che avevano fatto i Tarspok sfondando la porta dell'appartamento sottostante un'ora prima. Dando uno sguardo dalla finestra, non prima di aver spento la luce in cucina, la ragazza spia da dietro le tendine cosa sta accadendo. In pochi istanti, guardando quella scena, si materializzano davanti ai suoi occhi racconti di sua madre che aveva perso i genitori desaparecidos durante la dittatura in Argentina. Sua madre si era salvata perché era a casa con i nonni il pomeriggio che la sbiraglia, servizio del dittatore Jorge Rafael Videla, era piombata a casa portando via i suoi genitori entrambi con un sacchetto nero in testa e le mani legate dietro. Beatrice, più che per i Tarspok crivellati, è molto preoccupata per il ragazzo che abita in quell'appartamento perché lo conosce ed in più hanno qualche idea politica in comune. Alcuni minuti dopo, che i quattro uomini si sono allontanati con le auto a seguito, dall'appartamento con la porta sfondata non esce ancora nessuno. La ragazza non sa cosa fare, vorrebbe andare a vedere se c'è il suo amico in casa, ma ha paura. Sicuramente non è l'unica ad aver sentito e visto, e spera di sentire il rumore delle porte di altre case che si aprono. Sono passati almeno 5 minuti e nessuna porta si è aperta. Nessuna delle persone che vivono in quel palazzo ha avuto il coraggio di uscire a vedere cosa è accaduto. L'appartamento in cui è avvenuta la sparatoria è quello di Almi. Ma la ragazza, nonostante sia amica del refrattarius, non sa che il suo amico non è in casa da qualche giorno. Infilata la felpa e il giubbotto di pelle, Beatrice si fa coraggio e scende al piano di sotto per andare ad aiutare Almi, tante volte ne avesse avuto bisogno. La ragazza entra in casa, quasi in punta di piedi, scavalcando i due Tarspok che stesi a terra in una pozza di sangue, e la scena che si presenta davanti ai suoi occhi è quella di una vera e propria carneficina. C'è sangue sulle pareti, sui mobili, sul divano. A terra ci sono quattro cadaveri, due dei quali sono Tarspok. Beatrice tremante si dirige verso gli altri due cadaveri in abiti civili, con la testa spappolata dai propri proiettili che li rende irriconoscibili. La ragazza, in lacrime e non prima di aver vomitato anche l'anima, cerca di capire dagli abiti se ne riconosce qualcuno appartenente ad Almi. Poi sfila i portafogli dalle loro tasche per cercare dei documenti d'identità. In entrambi i portafogli estrae due tesserini della TV di Stato. I due sono i mediatasfoc che hanno lasciato la telecamera accesa sputtanando in Eurovisione navi, governatori e Vaticano. I due Tarspok morti accanto a loro sono le bocche della verità. Ma la ragazza non sa nulla di cosa sia accaduto, non sa che da quell'appartamento è venuta fuori una verità che potrebbe cambiare la storia di un paese. Beatrice controlla anche le altre camere ma non trova traccia di Almi e in particolare nota che il suo armadio nella camera da letto ha le ante spalancate, ma non ci sono abiti dentro e tantomeno ne vede a terra, sulle sedie o buttati sul letto. Per un attimo il terrore che Almi sia stato sequestrato si possessa della ragazza, ma poi gli viene in mente la scena dei due uomini usciti con arma in pugno e di sacchetti neri in mano dalla casa dopo la sparatoria. Il quarto uomo è uno anche egli armato che spara ai tasco. Non c'era nessun altro con loro e nessuno degli uomini poteva essere il refrattario, che ha una statura molto più piccola e molto più esile. Quasi un sospiro di sollievo dopo minuti di terrore, Beatrice, allo stesso modo di come era entrata, esce dall'appartamento e corre su quelle scale che portano a casa sua. Questi erano Pink Tanks Blue con il brano Missing You, dopo la lettura di Nazaro 13 con Freda il lunedì, nella diretta del lunedì, che apre la diretta del lunedì, ricorda la diretta del lunedì che non è solo controinformazione e musica, ma è controinformazione, soprattutto lettura, perché si legge molto di più rispetto alla controinformazione, e la musica ovviamente, un attimo per prendere fiato, per distrarci, per non appesantire il tutto. E poi una radio, giusto che ci sia anche la musica. Quindi ricordiamo subito gli indirizzi utili per radiazione, radiazione@bcc.org per la mail, chi vuole scrivere e dare consigli, oramai i consigli non ci servono più perché oggi il libro c'è, è stato preannunciato stesso stamattina attraverso il post che preannuncia la diretta del giorno, non ci sono arrivati consigli e quindi abbiamo scelto noi i sabotatori di Abbey. Poi dopo Marcello vi farà pure una piccola introduzione, quindi spiegherà un attimo qualcosa. La mail dove, vabbè, a parte potete inviare anche notizie di iniziative, pure materiale che posso, si può pubblicare sul sito di Radiazione, si può scaricare gratuitamente nella pagina download, come giornali, riviste, manifesti, CD e quant'altro. Attraverso il blog di Radiazione, radiazione.org, potete leggere la controinformazione aggiornata quotidianamente, ascoltate la radio attraverso le letture flash che trovate sulla sidebar il lunedì e venerdì dalle ore 17, scaricarvi il materiale come ho detto attraverso la pagina del download, ascoltarvi le vecchie dirette d'azione attraverso i podcast, c'è l'addizionario, la pagina dell'addizionario aggiunta qualche, proprio una settimana fa, che verrà aggiornata con nuovi termini con le lettere dell'alfabeto, andando a approfondire il significato con degli esempi di cosa significano certi termini, che a volte uno conosce i termini ma non sa precisamente cosa significa. Questo è tutto per quanto riguarda gli indirizzi utili per Radiazione. La Radiazione trasmette su anarchia.net, il server dei compagni compagno di Anarchist Library, che ce l'ha messa a disposizione sia per radio che per il sito. Cosa dire? Ah, c'è anche una sezione serbo-croata su Radiazione, c'è la sezione serbo-croata, un sito parallelo in lingua serbo-croata, quindi per chi conosce il serbo-croato può andare a controllare, altrimenti ve lo traducete o leggete la versione italiana. Ora ci ascoltiamo gli Atlantic Major Riot con il brano Blood in My Eyes e poi dopo si torna qui e si inizia con la lettura di I Sabotatori. Place. And Itchy, indescribable. Too much blood! Where'd you get your delusions from? Pochissime parole, oggi lunedì 31 marzo, diretta adattazione consueta con letture. Oggi iniziamo I Sabotatori o The Monkey Ranch Gang di Edward Abbey, un classico quasi diremo noi, un classico per chi non lo sappiamo, scritto nel 1975, è diventato in poco tempo quasi un testo fondamentale per un certo tipo di ecologismo radicale, di anarchismo libertario che ha molto a cuore le vicende ambientali. Per noi non esistono separazioni tra vicende economiche, politiche, sociali e quelle ambientali, sono vari lati di una stessa medaglia, di uno stesso meccanismo, ma basta con le parole, adesso sentiamoci di che cosa parla questa nuova lettura di Radioazione. Quando i lavori di costruzione di un ponte fra due stati sovrani degli Stati Uniti arrivano finalmente a conclusione, è il momento del discorso, delle bandiere, delle bande e della retorica tecno-industriale amplificata elettronicamente. È il momento di arringare la folla. La gente sta aspettando il ponte, agghindato con festoni, stelle filanti e striscioni fluorescenti, è pronto. Tutti aspettano l'apertura ufficiale, l'orazione finale, il taglio del nastro, l'incedere delle limousine. Poco importa che nella realtà il ponte già da 6 mesi abbia ospitato un intenso viavai di mezzi pubblici e privati. Lunghe file di automobili sono ferme in prossimità degli ingressi. Colonne di 1 chilometro verso nord e verso sud, controllate da poliziotti in motocicletta, uomini massicce, con le facce scure, vestiti di cuoio cigolante, irrigiditi da caschi antisommossa, distintive, pistoli, lacrimogeni, manganelli e radio. I lacchè, orgogliosi ma sensibili dei ricchi e potenti, armati e pericolosi. La gente aspetta. Soffoca dal caldo, arrostisce dentro le automobili fiammanti come scarafaggi sotto l'indolente ruggito del sole. Il sole del deserto di Utah e Arizona, l'infernale palla al plasma che arroventa il cielo. 5.000 persone sbadigliano all'interno delle loro vetture intimidite dagli sbirri e annoiate fino all'apatia dalle litanie dei politici. I loro pargoli strepitano e si azzuffano sui sedili posteriori mentre in una rivisitazione originale del dripping di Pollock si lasciano scorrere il gelato sul mento e sui gomiti disegnando macchie di colore sui radicali monovalenti dei coprisedili invinilite. Anche se nessuno riesce a sopportare il frastuono dei decibel sparati agli altoparlanti, tutto procede senza intoppi. Di per sé il ponte è un semplice arco d'acciaio, compatto ed elegante, concreto, come un'affermazione di fatto che si porta in groppa l'accessoria striscia d'asfalto, un marciapiede, dei binari e le luci di sicurezza. Lungo 1200 metri attraversa una gola profonda 2000, il Glen Canyon. Sul fondo della gola scorre il docile e addomesticato fiume Colorado che esce dalle viscere di una vicina diga del Glen Canyon. Un tempo rosso e dorato, come suggerisce il suo nome. Il fiume fluisce freddo, limpido e verde, il colore dell'acqua di ghiacciaio. Un grande fiume, una diga ancora più grande. Vista dal ponte si presenta con una faccia grigia, concava e perpendicolare di aggregato di calcestruzzo, implacabile e silente. Una forma possente, 800.000 tonnellate di massa comparate, svasate nella formazione Navajo di arenaria del basamento e dalle pareti del canyon, presenza stabile da una cinquantina di milioni di anni. Un tappo, un blocco, un grosso cuneo. La diga devia attraverso chiuse e turbine la forza del fiume disorientato. Quello che una volta era un corso d'acqua impetuoso è ormai un fantasma. Gli spiriti dei gabbiani e dei pellicani sorvolano il delta prosciugato a un migliaio di chilometri dall'oceano. Gli spiriti dei castori risalgono controcorrente con il naso affondato nel terreno cosparso di particelle d'oro. Un tempo i grandi aironi azzurri calavano, leggeri come mosche, con le lunghe zampe penzolanti sui banchi di sabbia increspati dal vento. La cicogna americana gracchiava sul pioppo nero. Il cervo si spostava lungo le coste del canyon, gli aironi e i nivei si riposavano sui tamarischi, lasciando piume svolazzanti nella brezza del fiume. La gente aspetta. L'arringa va avanti, tante bocche spalancate, un unico discorso che non si riesce a decifrare una parola. Il circuito elettrico sembra popolato da fantasmi. Gli altoparlanti, neri come il carbone, luccicano, piazzati su lampioni a collo d'oca a un centinaio di metri da terra, e blaterano come marziani. Un pasticcio di senso, lo squittio e farfuglio dei poltergeist tectontronici, frasi soffocati e paragrafi fibrillati rimbombano insieme al taglio sordo, sempre lo stesso, dell'autorità. Questo stato orgoglioso dello Utah, blip, è felice di avere l'opportunità, blip, di prendere parte all'inaugurazione di questo magnifico ponte, blip, che ci collega al tanto stato grande dell'Arizona, accelerare la nostra crescita, di contribuire così a promuovere e garantire lo sviluppo e la stabilità economica. Potrebbe, governatore, darmi una gioia addirittura maggiore della presente, che vede i nostri due stati raccolti intorno a questa diga. Aspettare, aspettare in fondo alla fila di macchine, laddove non giungono le parole degli oratori e fuori dalla portata dei poliziotti un clacson strombazza. Una volta e poi ancora, e risuona dappertutto quel suono di clacson. Un agente di servizio mette in moto la sua fedele Harley. Oh, Harley. E passa lentamente in rassegna la fila con lo sguardo corrucciato. Nessuno osa più sfiorare il clacson. Anche gli indiani osservano e aspettano. Riuniti in una congregazione informale di Ute, Paiute, Hopi e Navajo, su un versante aperto della collina sopra l'autostrada, sulla sponda del fiume che fa parte della riserva, riposano vicino al loro pick-up ultimo modello. Gli uomini e le donne bevono tokai. Le orde di bambini Pepsi Cola, tutti ruminano sandwich preconfezionati targati Wonder, Rainbow, Wholesome. I nostri nobili fratelli rossi sorvegliano la cerimonia che si sta svolgendo al ponte, ma le loro orecchie e i loro cuori sono con Merle Haggard, Johnny Paycheck e Tammy Wynette, pompati dagli stereo dei canyon sintonizzati su Radio Chaos, da Flagstaff, Arizona. I cittadini aspettano. Le voci ufficiali ronzano monotone dentro i microfoni, filano lungo i cavi abitati dagli spettri per uscire dagli altoparlanti difettosi, a migliaia, stipati nelle loro automobili immote, smaniosi di essere liberi, di attraversare tra i primi l'arco d'acciaio, quel ponte che, come sospeso nel nulla, attraversa con grazia il golfo del canyon, il vuoto arioso dove slittano e planano le rondini. 200 metri di caduta libera. È difficile cogliere appieno il senso di un simile salto. Il fiume che si muove e si insinua tra le rocce è così lontano che il ruggito arriva attutito come un sospiro. Un alito di vento trasporta via con sé quel sospiro. Il ponte si staglia nitido e vuoto, eccetto il gruppo di notabili al centro. La gente che conta è raccolta intorno ai microfoni e una barriera simbolica di nastro rosso, bianco e azzurro teso tra un parapetto e l'altro. Le Cadillac nere sono parcheggiate alle due estremità del ponte, al di là delle macchine ufficiali. Le masse vengono tenute a distanza da transenne di legno e poliziotti in servizio in motocicletta. A ancora più lontano la diga, il lago artificiale, il fiume, il ponte, la città di Paige, l'autostrada, gli indiani, la gente e i suoi capi sono dispersi per il deserto rosa. Fa caldo laggiù, sotto il sole feroce di luglio. La temperatura a livello del terreno non deve essere lontana dai 70 gradi. Tutte le creature sensate hanno trovato riparo all'ombra o attendono la fine del giorno in tunnel freschi scavati sottoterra. In quella distesa rosa non vive nessun essere umano, non c'è nulla che può trattenere lo sguardo dal vagare sempre più lontano, metri dopo metri di roccia e di sabbia, fino alle pareti a strapiombo di mesa, span di zucchero e tavolati che tracciano la linea dell'orizzonte a 80 km di distanza. Laggiù non cresce nulla, tranne macchie sparse di coleogne ramosissima e cactus, più la presenza casuale di qualche ginepro stentato e contorto dall'aria afflitta. È un piccolo pisello squamoso, una piccola serpentaria, nulla più, niente si muove, eccetto un pallido mulinello, un piccolo tornado di polvere titubante che vacilla scontrandosi con un pilastro di pietra e si accascia su se stesso. Nessuno è testimone dell'incidente, escluso un avvoltoio che galleggia 100 metri più in alto sulle correnti d'aria, calda, ascendente. Il rapace, se qualcuno lo stesse guardando, apparirebbe solo nell'immensità del cielo, ma non è così. Invisibili anche all'occhio umano più acuto, ma perfettamente visibili l'uno all'altro, gli altri avvoltoi aspettano, volteggiando pigramente nell'aria. Se uno si lancia in picchiata dopo aver individuato sotto di sé qualcosa di morto o moribondo, gli altri si precipitano da ogni direzione, materializzandosi dal nulla, e si riuniscono tutti con il capochino e gli occhi socchiusi intorno al cadavere del caro estinto. Di nuovo al ponte, le bande musicali delle scuole superiori di Kanab, Utah e Page, Arizona, spossate nel fisico ma sostenute dalla forza di volontà, si stanno esibendo adesso in una versione spumeggiante di Shall We Gather at the River, seguita da Star and Stripes Forever. Pausa. Applausi dignitosa, fischi, grida di incoraggiamento. La moltitudine, provata, sente che la fine è vicina, il ponte sta finalmente per essere aperto. I governatori di Arizona e Utah, uomini corpulenti con espressione gioviale, i cappelli da cowboy, gli stivali a punta, si rifanno di nuovo avanti. Ognuno di loro brandisce un paio di gigantesche forbici dorate che scintillano al sole. I flash superflui delle macchine fotografiche scoppiettano, le telecamere delle emittenti televisive registrano il corso della storia mentre avanzano. Un operaio si stacca improvvisamente dal gruppo degli spettatori, corre verso il nastro teso per un impercettibile ma senza dubbio fondamentale aggiustamento dell'ultimo minuto. Indossa un casco giallo canarino con gli stemmi che sono gli emblemi della sua classe: bandiera americana, teschio e ossa incrociate, la croce di ferro. Sulla parte posteriore della sua tuta da lavoro sporca è scritto a chiare lettere: America, amala o lasciala in pace. Compiuta la sua missione, si ritrae rapidamente nell'anonimato della folla cui appartiene. Un momento topico. La folla si prepara a liberare un applauso o due. Gli automobilisti risalgono nelle loro macchine, si accendono i motori, giù l'acceleratore, su il contagiri, le ultime parole: un attimo, prego. Forza, dai, vecchio mio, taglia quel nastro del cazzo. Io? Va bene, tutte e due insieme. Ah, pensavo dicessi, ok, allora levati che faccio io, va bene così. La maggior parte della gente disposta lungo l'autostrada riuscì a vedere poco o nulla di ciò che accadde dopo, ma gli indiani, appostati sul fianco della collina, videro tutto chiaramente. Erano posti da tribuna centrale, videro lo sbuffo di fumo nero che si sollevò dall'estremità del nastro tagliato, videro la pioggia di scintille che seguì allorché il nastro bruciò come una miccia attraverso il ponte. E quando i dignatari si ritirarono di gran carriera, gli indiani videro seguire come un'eruzione incontenibile uno spettacolo pirotecnico fuori programma. Da sotto i drappeggi delle bandiere scaturì un crepitio di mortaretti, il baluginio di girandole, bombette e petardi. E mentre il ponte si svuotava da un capo all'altro, un'eruzione di fuochi d'artificio divampò lungo i marciapiedi. I razzi sfrecciarono nell'aria ed esplosero, accompagnati da una tempesta di micette, bombe aeree M80, l'ottava frazione di un candelotto di dinamite. Dervici danzanti di fumo e di fuoco decollarono e presero il volo. Sequenze di petardi saltellarono in cielo come fruste di fumo, scoppiettanti e frastornati, schioccando alle calcagna dei governatori. La folla salutò con urlo e fischi, pensando che la cerimonia fosse approdata al suo punto culminante, ma non era così. Per quello bisognava aspettare ancora. Improvvisamente, la parte centrale del ponte si sollevò, come spinta dal basso, e si spezzò in due lungo una linea frastagliata. E attraverso quell'assurda frattura, dentellata come un lampo, un lenzuolo di fiamme rosse si protese in direzione del cielo, seguito un istante dopo da un devastante colpo di tosse esplosivo che fece tremare le pareti di arenaria del canyon. Il ponte si aprì come un fiore. Le due parti separate, ormai liberate da qualsiasi legame fisico, frammenti e blocchi cominciarono le parabole discendenti, precipitando, cadendo e affondando nell'abisso. Oggetti sparsi, le forbici dorate, una chiave inglese, un paio di Cadillac vuote scivolarono lungo la paurosa pendenza della strada sventrata e si lanciarono, ruotando lentamente nel vuoto. Impiegarono parecchio tempo ad arrivare giù e quando finalmente si schiantarono sulle rocce e sull'acqua molto più in basso, il suono prodotto dall'impatto giunto in ritardo sull'immagine fu appena percepibile anche dai più attenti. Il ponte era sparito. I monconi, straziati a ciascuna estremità, rimanevano attaccati al loro basamento nella roccia, penzolando l'uno verso l'altro come dita slogate, suggerendo il pensiero, ma non la voglia del contatto. Mentre il pennacchio compatto di polvere innalzato dalla catastrofe si espandeva, salendo fin sopra la cresta rocciosa, pezzi di asfalto e cemento e frammenti di acciaio e sbarre continuavano a precipitare dal cielo in movimento contrario, sfracellandosi 200 metri sotto, nel fiume macchiato ma imperturbabile. Sul lato del canyon, nel territorio dello Utah, un governatore, un commissario dell'autostrada e due funzionari di alto grado del Dipartimento di Pubblica Sicurezza si fecero largo in mezzo alla folla, diretti verso ciò che rimaneva delle loro limousine, scuri in volto e furibondi. Camminavano confabulando. «Questa è l'ultima bravata che fanno, governatore, glielo prometto. È una promessa che mi pare di aver già sentito, Crumbo. Il caso mi è stato affidato solo adesso, signore, e allora che cosa cambia? Beh, gli stiamo addosso, signore, abbiamo le idee abbastanza chiare su chi sono, come operano e qual è il loro prossimo obiettivo, ma non di dove si trovano. No, signore, almeno per ora, ma il cerchio si sta per chiudere. E quale diavolo sarebbe il loro prossimo obiettivo? Non mi crederebbe. E sentiamo. Il colonnello Crumbo puntò un dito verso il vicino est, indicando quella cosa. La diga. Sì, signore. No, non è possibile. E invece abbiamo ragione di pensare che sia così. No, la diga del Glen Canyon, no. Capisco che può sembrare folle, ma è a quella che puntano. Nel frattempo, in alto nel cielo, l'unico avvoltoio visibile disegna pazzi cerchi sempre più in alto, contemplando la pacifica scena sottostante. Guarda giù verso la diga perfetta. Segue il flusso della corrente dalla diga al fiume e sopra di esso il serbatoio di acqua azzurra, il placido serbatoio dove, come blatte, giocano i cabinati. Vede in quel preciso istante una coppia di sciatori nautici con le funi intrecciate che stanno per essere trascinati sott'acqua. Vede il bagliore del metallo e del vetro sulla lingua d'asfalto dove interminabili code di automobili sbuffanti, intrappolate nel traffico, avanzano lentamente verso casa, verso Kanab, Page, Tuba, City, Panguitch e altri luoghi più distanti. Nota, passando con la scura gola nel canyon principale, i tronconi dentellati di un ponte, l'alta colonna gialla di fumo e polvere che ancora sale piano piano dalle profondità della voragine, come un solitario segnale di fumo, come il simbolo silente della calamità, come un enorme, impercettibile, stupefacente punto esclamativo indicante. Sorpresa! Il pennacchio di polvere penzola sopra la sterile pianura, puntando in alto verso il paradiso e in basso verso la scena della spaccatura originaria, della perdita delle connessioni, il posto in cui insieme allo spazio il tempo stesso è stato disarticolato, spirato, aspirato, rilasciato, allungato e infine collassato. Sotto lo sguardo dell'avvoltoio non c'è più nulla di interessante, nulla di commestibile, e anche sotto l'ultimo occhio lontano, il luccichio del plasma giù a ovest, tanto distante dall'orizzonte di polvere azzurro, è lo stesso. Questi erano Saliva con il brano Click Click Boom, brano che segue alla prima lettura di Sabotatori, libro che stiamo leggendo da oggi. Abbiamo appena finito di leggere il primo paragrafo. Ora si passa alla controinformazione, si va a Volos in Grecia, dove c'è un testo di rivendicazione per un attacco contro un ufficio delle imposte. Leggiamo il testo rivendicativo: 1000 ore di teoria equivalgono ad un minuto di azione. Venerdì 21 marzo all'alba abbiamo attaccato l'ufficio delle imposte nel quartiere di Ne Ionia, nella città di Volos. Abbiamo scelto come punto dell'incendio l'archivio della struttura, che abbiamo cosparso di benzina e gli abbiamo dato fuoco. Il nostro obiettivo era che le fiamme si diffondessero per l'intero edificio, ma a causa della mancanza di ossigeno il fuoco non si è espanso. La prossima volta saremo più meticolosi. Le ragioni per cui abbiamo scelto come obiettivo l'ufficio delle imposte sono ovvie. L'unica cosa che dobbiamo al meccanismo principale di saccheggio dello Stato è la sua distruzione. L'azione si sostituisce alle lacrime, con l'azione superiamo le nostre paure, non aspetteremo che le condizioni siano mature, non aspetteremo che la società si svegli, non aspetteremo nessun rivoluzionario che si ribelli. Ci rivolgiamo a quelli che non vogliono vivere in una vita sottomessa, ci rivolgiamo a quelli che coscientemente si oppongono a questo vecchio mondo, ad abbandonare le loro miserie e l'inerzia ideologica e passare all'azione. Iniziamo noi ad aggiornare l'agenda Anarchici in Azione. E questo era il primo testo per quanto riguarda oggi la controinformazione. Ora ci ascoltiamo un brano. Loro sono Cybernet System con il brano Give Us the Technology, e poi dopo si ritorna con la lettura di I Sabotatori di Edward Abbey. Technology. We need the 1. Il dottor A.K. Service, o lo chiamiamo noi Service. Quella notte il dottor Service, con la sua capoccia calva e macchiettata e il viso selvaggio, severo e nobile come Sibelius, era in giro impegnato nella sua consueta attività di abbellimento del quartiere: bruciare i tabelloni per le affissioni lungo la Highway 66, che da breve sarebbe stata divorata dall'autostrada interstatale. La sua procedura era semplice e chirurgicamente perfetta. Con una tanica da 20 litri cospargeva di benzina i pali e gli elementi di supporto dell'obiettivo selezionato, poi avvicinava un fiammifero. Tutti dovrebbero averlo, un hobby. Nell'intenso bagliore che seguiva lo si poteva vedere tornare trotterellando goffamente alla sua Lincoln Continental Mark IV parcheggiata nei paraggi, non curante della tanica vuota che gli sbatacchiava contro i polpacci. Uomo alto, imponente, peloso come un orso, alla luce delle fiamme proiettava un'ombra ancora più impressionante su quella scena nuda di bottiglie di whisky rotte, fichi d'India e cactus, simili a palchi di cervo. Nel bagliore del fuoco i suoi occhi rossi sembravano bruciare di luce propria, in sintonia con la brace incandescente del sigaro che stringeva fra i denti. Tre fanatici bulbi rossi che favillavano nell'oscurità. Si fermò per ammirare la sua opera. «Salve, amico. Benvenuto ad Albuquerque, New Mexico, cuore delle terre incantate». Le luci delle auto di passaggio lo illuminavano a intermittenza, i clacson rombavano derisori, mentre giovani olivastri foruncolosi con i testicoli a prova di gravità sfrecciavano strafatti su modelli base di Mustang, Impala, Stingray e Beetle, ognuno con un vero amore d'alta gradazione alcolica incuneato in grembo, così che viste da dietro attraverso il lunotto posteriore in silhouette contro i fari che sopraggiungevano le auto sembravano condotte da un singolo occupante, anomalia, ma bicefalo. Altri amanti strillavano sfrecciando con il sedere incollato ad arco sul sellino posteriore di Centauri, Kawasaki 880 cilindrata, con lunghe forcelle e tubi di scarico da spettacolo pirotecnico tipo Harahiri, Kamikaze, Karate e il rompicante Kutsu, tutti i regali dello stesso delizioso popolo che, esplodendo scintille e frammenti della parete del cilindro, ruggivano convulsamente come spastici demoni della tecnica in quella che un tempo era la vasta quiete della notte sud-occidentale. Non si fermò nessuno, eccetto la pattuglia della stradale, la polizia, arrivata prontamente 15 minuti dopo per trasmettere via radio ad uno sdegnoso centralinista della centrale il resoconto di un inspiegabile incendio appiccato al tabellone e poi schizzare fuori dal veicolo con estintore nella mano guantata per tentare di domare un po' le fiamme con esausti getti di idrocloruro di sodio liquido, più bagnato dell'acqua perché aderisce meglio come schiuma di sapone, e lo gettavano sulla pira. Sforzi generosi quanto inutili, disidratati da mesi, a volte di venti e aria secca desertici, il pino e la carta dei più nobili e magnifici tabelloni bramavano in ogni molecola una rapida combustione, avvolti nel fuoco con il desiderio folle, l'estasiata intensità degli amanti impegnati nella fecondazione. Il fuoco devastatore, le fiamme purificatrici davanti a cui il piromane plutonico dal cuore d'asbesto non può far altro che genuflettersi e pregare. Nel frattempo Doc Service, il dottor Service, si era calato giù per la sponda friabile del ciglio stradale sotto il gonfio bagliore proveniente dall'opera appena compiuta, scaricò la sua tanica di benzina nel bagagliaio dell'automobile dove un brillante argentato caduceo mandava riflessi alla luce dell'incendio, lo rinchiuse con un colpo secco e si lasciò andare sul sedile davanti di fianco all'autista. «Il prossimo!» chiese lei. Lui fece schizzare il mozzicone di sigaro fuori dal finestrino abbassato del canale di scolo. La traccia dell'arco incandescente rimase per un momento nella notte, un'impressione retinica con traiettore d'arcobaleno, la cui parte terminale sparge fiammelle nella pozzanghera dorata. e si scartò un altro mesh wheeling sigaro, senza che la sua celebrata mano da chirurgo rivelasse uno scatto o un tremore. Adesso andiamo a occuparci della zona ovest. La grande macchina si mosse in avanti con un brontolio del motore. Le ruote schiacciavano lattine e piatti di plastica da picnic sulla banchina. I cuscinetti serrati scivolavano nel grasso, servizievole. I pistoni, a bagno nell'olio, andavano su e giù nella stretta gentile dei cilindri, trasmettendo cuscinetti alle bielle all'albero motore, dall'albero motore all'albero primario, attraverso la scatola scrotale che è del differenziale via asse, tutta la potenza alle ruote. Procedettero, ovvero avanzarono, in un silenzio riflessivo verso il neon nervoso, il rock spastico, anapestico, il roll apoplettico del sabato sera di Albuquerque, New Mexico. Per essere un americano, il sabato sera dovevi vedere e vendere la tua anima immortale. Giunti a Glassy Gulch, si diressero verso le torri di 40 piani della finanza che bruciavano come blocchi di radium sotto lo smog illuminato. Abzug! Doc, ti amo, Abzug. Lo so, Doc. Sfilano davanti a un'impresa di pompe funebri illuminata con i caratteristici mattoni rossi di adobe essiccati al sole. Onoranze funebri, Stonthorn. Oh, morte, dov'è il tuo morso? Giù, sotto il cavalcavia della ferrovia di Santa Fe. Tutte le strade portano a Santa Fe. Ah, sospirò il dottore. Mi piace questo. Sì, ma se non ti spiace interferisci con la mia guida. E il mano negro colpisce ancora. Va bene, Doc, mi ci farai fare un incidente e mia madre ti porterà in tribunale, vero? Confermò lui. Ma ne vale la pena. Oltre i motel, nel periodo prebellico fatti con stucco e mattonelle spagnole al margine occidentale della città, percorsero un lungo e basso ponte. Ferma qui, lei bloccò la macchina. Doc Sarvis scrutò giù verso il fiume, il Rio Grande, il grande fiume del New Mexico, le cui acque scure e complicate brillavano con le luci della città riflesse dalle nuvole. Il mio fiume, dice lui, il nostro fiume, il nostro fiume. Facciamo quel giro sul fiume, presto, presto. E tenne sollevato un dito, ascolta. Ascoltarono. Il fiume là sotto stava mormorando qualcosa come un messaggio. Vieni a scorrere con me, dottore, attraverso i deserti del New Mexico, giù per i canyon del Big Bend, e su, verso il mare del Golfo dei Caraibi, giù dove quelle giovani sirene agitano per la tua testa calva le loro ghirlande di arche. Oh, Doc, ci sei, Doc? Riprendiamo, Bonnie, questo fiume aggrava la mia malinconia. Ah, per non parlare della tua autocommiserazione, il mio senso di déjà vu. Sì, mein Weltschmerz. La tua Weltschmalz, la ami. Beh, e tirò fuori l'accendino. Quanto a questo, chi è che può dirlo? Oh, Doc, guardando il fiume, guidando, studiando la strada, diede un colpetto al ginocchio di lui. Dai, non pensarci più. Doc annuì, trattenendo la spirale rossa sotto il suo sigaro. Lo scintillio dell'accendisigari, le morbide luci del cruscotto conferivano alla sua larga e ossuta testa pelata ma barbuta una dignità conquistata a fatica. Sembrava Jean Sibelius, con sopracciglia e baffi nel pieno vigore dei suoi fruttuosi 40. Sibelius ne visse per 92 di anni. A Doc, per arrivarci, ne mancavano ancora 42 e mezzo. Abzug lo amava. Forse non molto, ma abbastanza. Lei era una dura figlia del Bronx, ma se necessario poteva essere dolce come un Apfelstrudel. La voce di Abzug poteva a volte dare sui nervi quando era di umore querulo, ma baci, caramelle o lusinghe riuscivano generalmente ad ammorbidire la durezza dei suoi toni urbani. La sua lingua, pur tagliente come una falce, era dolce, pensava lui, come la stella di David. Anche sua mamma lo amava, naturalmente non aveva altra scelta, lo aveva messo al mondo per questo. Sua moglie lo aveva amato più di quanto meritasse, più di quanto richiedesse il buonsenso. Se ne avesse avuto il tempo avrebbe potuto amarlo anche di più. I figli erano tutti cresciuti e vivevano adesso in un altro continente. I pazienti migliori di Doc lo adoravano, ma non sempre pagavano i loro conti. Aveva alcuni amici, qualche compagno di poker al comitato di contea del Partito Democratico, qualche compagno di bevute alla Medical Arts Clinic, un paio di vicini nelle AIDS. Nessuno intimo, i suoi pochi amici intimi andavano sempre via, sembrava, e tornavano di rado. I legami del loro affetto non andavano più in là degli scambi epistolari che sono fragili ed effimeri. Egli era tuttavia orgoglioso e riconoscente di avere al suo fianco quella notte un'infermiera e una compagna come Bonnie Apzuk. Mentre l'automobile nera saliva in direzione ovest, sotto la cappa rosea della caratteristica atmosfera cittadina, lasciate alle spalle le ultime stazioni Texaco, Arco e Gulf, oltre l'ultimo wagon wheel bar, il deserto aperto. In alto, sulla mesa occidentale, vicino ai vulcani bruciati, sotto un luminoso cielo stellato che lasciava storditi, si fermarono tra i cartelloni indifesi lungo il lato dell'autostrada. C'era tutto il tempo per scegliere un altro obiettivo. Doc Sarvis e Bonnie Apzug li passarono in rassegna. Erano davvero tanti, innocenti e vulnerabili, schierati a ranghi compatti lungo la carreggiata. Una festa per gli occhi, difficile scegliere. Quello militare? Che recitava. Il corpo dei Marines costruisce uomini. Perché le donne no? Chiese Bonnie. E quello degli autotrasportatori? Se si fermano i camion, si ferma l'America. Non minacciatemi, figli di puttana. Diede un'occhiata al cartellone politico. Che cosa c'è di sbagliato a essere nel giusto? Entra nella John Birch Society. Ma preferiva la politica. Buona giornata, siamo tutti sulla stessa barca. Il dottor Sarvis li apprezzava tutti, ma sentiva una certa futilità nel suo hobby. In quei giorni tirava avanti più per abitudini che per convinzioni. C'era un destino più alto che chiamava lui e Bonnie Apzug. Quel dito puntato nei suoi sogni. Bonnie, che c'è? Tu che dici? Dovresti tirarne giù un altro, Doc. Dopo tutta questa strada non saresti contento se rinunciassi. Brava ragazza, e quale dovrebbe essere? Bonnie puntò il dito. A me piace quello. Giusto, disse Doc. Smontò dalla macchina e raggiunse il bagagliaio facendosi largo in mezzo alla distesa di lattine del sistema ecologico stradale. Aprì il portellone e, tra mazze da golf, ruote di scorta, motosega, bomboletta di vernice, cricche, chiavi varie, tanica di benzina vuota, prelevò un'altra tanica di benzina piena. Doc chiuse il portellone. Applicato in tutta la lunghezza del paraurti posteriore, un adesivo luccicante proclamava in lettere rosse, bianche e blu fosforescenti: sono orgoglioso di essere armeno. La macchina di Doc portava altri amuleti. Era il classico decalcomaniaco per tenere a distanza il male, il caduceo dell'ordine dei medici, decalcomanie della bandiera americana appiccicata in ogni angolo dell'unotto, una bandiera con i bordi dorati che penzolava dall'antenna radio. In un angolo del parabrezza un adesivo recitava Social ABLA, Americans for Better Law Enforcement, americani per una vita, per una migliore applicazione della legge. E nell'angolo opposto l'aquila azzurra della National Rifle Association, l'associazione degli amanti del fucile, con il tradizionale adagio: registriamo i comunisti, non le armi. Con prudenza, guardando da entrambi i lati, severo e sobrio come un giudice portandosi appresso i suoi zolfanelli la tanica di benzina, il dottor Sarvis marciò attraverso erbacce, cocci di bottiglia, stracci e lattine di birra che riempivano il canale di scolo. Tutto l'armamentario tragico è abbandonato nelle strade americane e risalì la scarpata verso l'oggetto della sua piromania. Magico pane arricchito per scolpire il tuo corpo in 12 modi diversi. Bugiardi! La sua Bonnie rimase sotto ad aspettare, incollata alla ruota della Lincoln, con il motore che girava al minimo, pronta per la fuga. Camion e macchine sibilavano sull'asfalto, riflettendo per un breve istante le loro luci sulla faccia della ragazza, i suoi occhi violetti, il suo sorriso, e sull'adesivo dell'altro paraurti di Doc, quello che si misurava con il futuro. Dio benedice l'America, noi almeno salviamone un pezzo. I'm gonna go to the hospital. c'era Rob Zombie con il brano The Greatest American Nightman. Ora si ripassa alla controinformazione con una proposta alla controinformazione, un testo che è stato inviato a un bel po' di siti e blog anarchici, scritto da sottoscritto, su qualche qualcosa che non quadra tanto bene, che ho criticato più di qualche volta, ma ce n'è bisogno, ce n'era di bisogno anche di farne una proposta. Allora, leggo il testo a tutti i compagni che fanno controinformazione via web. Ho più volte fatto sentire la mia voce attraverso le riflessioni che sono apparse su Radiazione riguardo a certe dinamiche, su un determinato modo di fare la controinformazione che secondo me va ogni oltre il concetto di anarchismo. Tipo, una pratica che ho più volte criticato è la richiesta della fonte da parte dell'autore, si fa per dire, dato che i testi spesso pubblicati ci arrivano via mail, posta o si traducono da altre lingue, quindi gli autori non siamo noi. In caso lo stesso articolo, questo viene richiesto in caso lo stesso articolo o lettera o qual che sia venga pubblicato su altri siti e blog. Secondo il sottoscritto, la fonte dovrebbe servire a chi legge per controllarne in lingua originale le cose che pubblichiamo, nel caso nelle nostre traduzioni ci sia qualche errore, che può starci anche per la stanchezza quando si traduce tanto o quando vengono usati i traduttori. Inoltre può servire a chi legge per crearsi dei propri contatti con altri compagni in modo da contattare individualmente per ulteriori informazioni. Ho sempre inteso e definito la richiesta della fonte come una richiesta del diritto d'autore che non si discosta per niente da qualsiasi copyright. Lettere dei compagni detenuti, rivendicazioni di attacchi, comunicati di arresti, sgomberi, morti, repressione in generale non possono essere marchiate con il termine fonte a fine articolo perché viene richiesta la sua posizione. Un altro discorso è mettere una fonte nel caso ci faccia piacere metterla. La richiesta con tanto di toni risentiti è una richiesta di copyright. Il far conoscere il proprio sito blog attraverso la richiesta di fonte è una modalità che deve essere resettata definitivamente, perché così facendo si fa pubblicità sulla libertà negata ai compagni sequestrati, sul coraggio e il pericolo dei compagni che praticano l'azione diretta e sulle sfighe repressive subite da altri compagni ancora. Leggendo un po' tutte le pagine di controinformazione che conosco, tutte hanno in home page link di altri siti e blog internazionali. Questo basta per mettere a conoscenza di chi legge la controinformazione via web dell'esistenza di tantissimi siti e blog. La fonte richiesta è un diritto d'autore, un copyright, una proprietà privata, un enorme controsenso se poi nelle nostre pagine si parla di Marius Jacob, Severino Di Giovanni, Badan Bonneau, Os Fantazzini, come per i tempi moderni si parla dei quattro compagni della doppia rapina di Velvendo, Cozzani, oppure di Sebastian Oversluy, eccetera eccetera. La proprietà privata si materializza attraverso varie forme, la richiesta della fonte è una di esse. Quindi avviso in anticipo, così nessuno potrà lamentarsi, che partendo da tali concetti, la prossima volta che a Radiazione arriverà una mail con toni risentiti per non avere apposta la fonte, tale mail verrà pubblicata sul sito e messa a conoscenza di tutti i compagni. Seconda proposta che faccio ai compagni è quella di controllare sempre bene le notizie che vengono pubblicate. Se si hanno dubbi, possono essere richieste delucidazioni ad altri compagni. Questo può accadere quando si toccano argomenti riguardanti altri paesi lontani da noi. Se si legge un comunicato su un sito di nazionalità X, prima di pubblicarlo sarebbe bene chiedere delucidazioni a qualche compagno dello stesso paese X di cui ci si fida, tipo sulla firma del comunicato, quella dell'attacco o ancora del prigioniero definito compagno. Tutto ciò lo dico per evitare che un compagno X del paese X, leggendo uno scritto su Radiazione, per esempio, ho messo Radiazione così nessuno si offende, che non si è accurata di precisare alcune cose fondamentali, non comprenda fischi per fiaschi. Tipo detenuti comuni che vengono definiti compagni anarchici, tipo sigle di gruppi che non sono anarchiche ma marxiste, leniniste e staliniste. Ognuno fa le proprie scelte di convivenza politica, chi è individualista, chi è per i gruppi di affinità, chi con qualsiasi individuo o gruppo che basta sia anarchico, chi crede nelle unità con ideologie da sempre nemiche e nocive degli anarchici. Ognuno fa le sue scelte e le deve fare per sé, senza far cadere in errore altri compagni che a mille chilometri e più non conoscono le varie realtà politiche del paese in discussione. Quindi un invito a indicare sempre con un'apertura all'articolo o una nota alla fine se si tratta dello scritto di un individuo o un gruppo che non sia anarchico. Ovviamente poi sta a noi da finire leggere bene il contenuto dei comunicati che andiamo a prendere da altri siti e blog e farne le conclusioni se pubblicarlo o meno. Almeno su questo, seguendo il mio criterio, do per scontato che chi pubblica è d'accordo sul contenuto che ripropone, altrimenti perché propagandare cose su cui non si condivide il contenuto? A cosa serve fare di siti e blog dei contenitori da riempire con ansia di qualsiasi cosa? Io per esempio non pubblicherò mai testi di gruppi non anarchici come quelli marxisti, leninisti, stalinisti eccetera, perché la storia ci fa notare rivoluzioni anarchiche represse nel sangue da parte di chi perseguiva gli ideali rossi. Quindi preferirei non ricevere certe cose. Da sempre non ritengo i russi i miei compagni, cosa che ha comportato continui scazzi negli anni tra il sottoscritto e alcuni compagni anarchici in Italia. Come da sempre ricordo che agli anarchici hanno fatto più male quegli ideali comunisti che quelli di qualche testa di cazzo rasata con ideali nazifascisti altrettanto nocivi. Il vero nemico è quello che finge di starti accanto per poter portare avanti i suoi scopi. Allo stesso momento non pubblico molti testi anarchici che non condivido. Queste due proposte fatte a compagni che portano avanti siti e blog non sono valide anche per quanto riguarda la controinformazione cartacea, ovviamente. Se proprio si vuole riempire le nostre pagine, facciamolo con le nostre riflessioni. Abbiamo bisogno di riflessioni nuove, come abbiamo bisogno di sorridere davanti alle provocazioni, altrimenti la risata che gli seppellirà non arriverà mai. Redazione 29 marzo 2014. E questa era la proposta fatta dal sottoscritto, che ripeto è stata inviata via mail ai vari siti e blog anarchici e che è stata pubblicata anche sul sito, anche perché chi avrà idea di aprire un sito, un blog, fare un giornale in cartaceo, oppure compagni che comunque leggono solo la controinformazione, è giusto che sappiano certe cose. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Circle of Dust con il brano It Opened Wide e poi dopo si ritorna qui con la lettura dei Sabotatori. George W. Haydock. George Washington Haydock, Vietnam, reparti speciali, era incazzato. Dopo 2 anni trascorsi nella giungla indocinese ad aiutare le donne a partorire e sfuggire agli elicotteri perché i ragazzi laggiù sparavano i loro acrobatici dum dum a un ritmo di 30 al secondo a qualsiasi cosa si muovesse, polli, bufali, raccoglitori di riso, giornalisti americani dispersi, medici dei berretti verdi, qualsiasi cosa insomma respirasse. E un altro anno come prigioniero dei Vietcong era tornato in quella terra a cui non aveva mai smesso di pensare, soltanto per scoprire che non era rimasto nulla di ciò che ricordava. Era sparito il deserto chiaro e classico e con lui il cielo trasparente che solcava nei sogni. Qualcuno o qualcosa stava cambiando lo scenario. La città di Tucson, dalla quale proveniva e nella quale tornava, era circondata ora da basi della Titan ICBM, giganteschi bulldozer D9, che gli ricordavano i aratri romani che spianavano il Vietnam. Avevano grattato via dal deserto aperto tutta la vegetazione, tutte le forme di vita. Queste devastazioni prodotte dalle macchine lasciavano spazio alla crescita dell'amaranto e allo sviluppo edilizio. Una squallida piaga di futuri bassifondi costituiti da assi ammuffite, muri secchi di truciolato e tetti prefabbricati che volavano via con il primo vento forte. Questo accadeva nelle terre delle creature libere, rospi, cornute, topi del deserto, mostri di gile e coyote, persino il cielo, quella cupola di azzurro delirante che un tempo aveva pensato essere fuori portata stava diventando una discarica per l'immondizia gassosa dei fonditori di rame. La lordura che Kankakee, Anaconda, Phelps Dodge, American Smelting and Refining and Co. stavano pompando nel cielo pubblico attraverso le ciminiere. Una macchia di aria inquinata era sospesa sulla sua terra. In tutto questo, Haydock sentiva puzza di marcio. Un'amarezza incandescente gli scaldava il cuore e i nervi. Il fuoco lento della rabbia gli manteneva rovente l'anima e ritti i peli intorno al collo. Haydock bruciava e non era un uomo paziente. Dopo un mese trascorso insieme ai suoi genitori, se la filò a gamba in spalla da una ragazza a Laguna Beach, la trovò, ci si azzuffò e la perse. Tornò nel deserto e fece una lunga deviazione ad est per dirigersi a nord verso la terra dei canyon, l'Arizona Strip e le terre selvagge e anche oltre. C'era un posto che doveva vedere e fermarsi lì a pensare prima di capire che cosa doveva fare. Aveva mentre Lee's Ferry, il fiume colorato, il Grand Canyon. Haydock macinava l'asfalto con la sua nuova Jeep di seconda mano, un occhio alla strada e l'altro, arrossato per colpa della febbre da fieno, era allergico all'amaranto, quell'esotico vegetale che viene dalle steppe della Mongolia. Aveva comprato la Jeep, un azzurro sbiadito dal sole e rovinato da una tempesta di sabbia, a San Diego da una coppia di venditori d'auto che si facevano chiamare Square Deal, Andy e Top Dollar. El risparmio Gianni. La pompa della benzina aveva dato forfè per prima vicino a Brawley e a Yuma, procedendo a passo di lumaca per una foratura, aveva scoperto che Squirty li aveva venduto per soli $2,795, bisogna dirlo, una Jeep priva di crick. Piccoli problemi, nonostante tutto, perché quella macchina gli piaceva. Era soddisfatto di tutti gli optional utili, barre di protezione, taniche di emergenza per la benzina, cerchioni metallizzati e pneumatici con battistrada largo, mozzi e argani firmati Warn, con quasi 500 metri di cavo, il portalattino è montato su un sostegno cardanico e avvitato al cruscotto e quei disegni fantasiosi sulla carrozzeria. Il deserto allora alleggeriva la sua rabbia indefinita. vicino alla strada polverosa che si staccava dall'autostrada e si lanciava a est per 15 km fino ai bastioni vulcanici delle Kofa Mountains, si fermò ben lontano dal traffico a fare uno spuntino sull'erba. Sedeva sulla roccia calda sotto l'abbagliante sole primaverile, mangiando cetrioli, formaggio e prosciutto in un rotolo di pane alle cipolle, innaffiando il tutto con birra, e aprì i suoi pori e le sue estremità nervose alla dolce immobilità del deserto dell'Arizona. Scrutò intorno e scoprì che ricordava ancora la maggior parte dei piccoli arbusti, il meschite, ottimo fuoco per cucinare e scaldare, fagioli per i tempi duri, ombra per la sopravvivenza, il palo verde che prende il nome dalla sua corteccia con i gambi senza foglie, la clorofilla è nella corteccia, il sottile cotino che galleggia come un miraggio giù nella palude sabbiose, Haidak si rimise in marcia. La furia calda del vento che soffiava a 100 km/h fischiava attraverso il suo finestrino abbassato, strimpellava sulla sua manica, gli baciava l'orecchio mentre procedeva incollato al volante verso le terre alte, la buona terra, la terra di Dio, la terra di Haidak, per Dio. Ed era meglio se continuava così, oh, Dio cane, gliel'avrebbe fatta pagare. Haidak ha 25 anni, è un tipo tarchiato, largo e nodoso, muscoloso come un lottatore, la faccia è pelosa, molto pelosa, e con la bocca capace e denti in buone condizioni, zigomi, possenti e una massa di folti capelli neri quasi blu, forse da qualche parte nel suo corredo genetico scorre un po' di sangue Shawnee. Le sue mani sono grandi ed energiche, di un bianco pallido sotto la folta peluria. È stato nella giungla e poi in ospedale per parecchio tempo. Si scolò un'altra birra continuando a guidare, due confezioni e mezzo da sei fino a Lee's Ferry. Laggiù, nel sud-est, lui e i suoi amici misuravano le distanze stradali in confezioni di birra da sei a testa, da L.A. a Phoenix le andavano 4, da Tucson a Flagstaff 3, da Phoenix a New York 35. Il tempo relativo, diceva Eraclito secoli fa, è la distanza una funzione della velocità, da quando lo scopo principale della tecnologia dei trasporti è l'annullamento dello spazio, la compressione di ogni essere in un unico punto puro, la confezione di birre da sei aiuta. La velocità è l'ultima droga e i razzi viaggiano con l'alcol, questa teoria era tutta farina del sacco di Haidak. Sentiva e si abbandonava all'esaltazione del sole, all'alcol che gli scorreva nelle vene, alla soddisfazione per la sua jeep che correva spedita senza perdere colpi mentre proseguiva verso le rupi rossi della terra dei canyon. La smesa spurpure, la rosa di montagna, gli uccelli azzurri, tutte spie del suo complicato sistema nervoso indicavano problemi. Ma non era così, perché Haidak era felice. C'era un campo speciale delle forze speciali. C'era un cartello speciale che penzolava insieme alle bandiere della Confederazione Sudista dal cancello di entrata fino al campo speciale, e su quel cartello si poteva leggere: se uccidi per denaro sei un mercenario, se uccidi per piacere sei un sadico, ma se lo fai per entrambi i motivi sei un berretto verde. Benvenuto. Nelle terre alte, le montagne di Flagstaff apparvero all'orizzonte, i picchi più alti maculati dalla neve, il fumo delle segherie si alzava grigio azzurro nella foschia verde delle conifere della Coconino National Forest, la grande cintura boschiva verde dell'Arizona settentrionale. Attraverso il suo finestrino abbassato entravano l'aria pulita e frizzante, l'odore della resina, il puzzo di legna bruciata nel cielo. Sopra le montagne non c'era nemmeno una nuvola, terso come l'azzurro scuro del destino infinito. Mentre attraversava Flagstaff a 2000 metri di altitudine, Haidak sorrise arricciando le narici, strappando la linguetta dell'altra Shields e si ricordò di un poliziotto di Flagstaff a cui l'aveva giurata. Un arresto ingiusto, una notte in guardina con 20 Navajo che vomitavano, qualcosa che era suppurato in un angolo della sua mente per 3 anni, un prurito, come un prurito non grattato. E solo per il gusto di farlo, pensò, perché non subito? Era libero, non aveva niente di meglio da fare, e quindi perché aspettare? Si fermò allora per fare il pieno ad una stazione di rifornimento, controllò l'olio, poi sfogliò un elenco telefonico e trovò il nome e l'indirizzo che voleva. Non ebbe nessuna difficoltà a ricordare quel nome, la targhetta sulla divisa, come il badge, come le spille delle bandierine sul bavero della giacca componevano un'immagine così vivida che sembrava fosse accaduto tutto la sera precedente. Consumò la cena in un caffè tetro, poi guidò fino all'indirizzo, parcheggiò la sua jeep a mezzo isolato di distanza e rimase ad aspettare. Sera, il breve crepuscolo sud-occidentale, le luci dei lampioni che tremolavano, attese che calasse la notte tenendo d'occhio il portone d'ingresso della casa, attese ripassando le procedure, facendo l'inventario delle armi in suo possesso illegalmente occultate nella jeep pronte per l'uso. Un coltello Buck, lo special, con la lama affilata come quella di un rasoio, una 357 Magnum carica con un solo proiettile mancante, una piccola balestra d'acciaio Vietcong con frecce a testa alta costruite con i rottami di un elicottero americano, ricordo di Duck 2, una carabina Winchester modello 95, il classico fucile per la caccia al cervo impacchettata nel fodero di una sella, un AK-47 Kalashnikov, un altro souvenir con 2 caricatori pini legati insieme con una striscia di nastro adesivo, è l'articolo fondamentale, la spina dorsale del suo arsenale, l'elemento base di ogni kit letale che si rispetti, il fucile per tiro a bersaglio Remington calibro 30-06 con chiusura dell'otturatore manuale, telescopio Bausch & Lomb 3x9 variabile, abbastanza preciso da beccare musi gialli o altri colori. Ho l'orecchio di tuo fratello a mezzo chilometro di distanza, alta velocità, traiettoria pianta. Più il kit per il ricaricamento, polvere, capsuli, proiettili, culatte recuperate e tutto il resto, come molti americani, Haydock amava le armi. Il metallo unto di grasso, l'odore acre della polvere bruciata, il sapore metallico dei bossoli, le brillanti leghe di rame, la buona coltelleria. Tutte le cose ben fatte e mortali. Nonostante rimanesse immutato il suo amore per scoiattoli, petti rossi e ragazze, aveva anche imparato come gli altri ad acquisire il gusto per la distruzione metodica, totale e calcolata al millesimo, accoppiato nel suo caso alla passione per l'equità, statisticamente rara. È l'istinto conservativo di tenere le cose non come sono ma come dovrebbero essere, ancora più raro, a tenerle come erano. Ragazze, aveva detto il sergente, al buio sono tutte uguali, chi se ne fotte delle ragazze? Dovreste vedere la mia collezione di pistole. Il sergente, quel sergente, imbustato in qualche modo dopo l'incidente nel suo sacco da morto, spedito a casa in un soprabito di legno come altri. 55.000 vittime. Seduto al buio in attesa, Haydock esaminò e scartò un certo numero di opzioni. Primo, niente omicidio. La punizione doveva essere commisurata al crimine. Il crimine, in questo caso, era l'ingiustizia. L'agente di polizia, che si chiamava Hall, lo aveva arrestato e schedato per ubriachezza molesta, il che costituiva un arresto improprio. Haydock, infatti, non era affatto ubriaco. Quello che aveva fatto alle 3 del mattino a un isolato dal suo albergo era fermarsi a guardare Hall, lo sbirro, e a un collega in borghese interrogare un indiano di passaggio. Hall, non abituato a essere osservato da un civile sconosciuto, aveva attraversato a passo di carica la strada, infastidito, nervoso, agitato, intimando di mostrargli immediatamente il documento di identità. I suoi modi avevano chiaramente dato subito sui nervi ad Haydock. «Perché dovrei?» aveva chiesto con le mani infilate nelle tasche. «Ti Tira fuori le mani dalle tasche, gli aveva ordinato lo sbirro. E perché dovrei? Aveva insistito Hightech. La mano di Hall aveva tremato sul calcio della sua pistola. Era un poliziotto insicuro, giovane e nevrotico. Il secondo uomo era rimasto ad aspettare in macchina a osservare con un fucile tenuto bene in vista tra le ginocchia. Hightech non aveva potuto fare a meno di notare l'arma. E senza troppa voglia aveva tirato fuori le mani nude dalle tasche. Hall lo aveva afferrato per il collo, trascinato dall'altra parte della strada, sbattuto contro l'auto di servizio e perquisito, sentito la birra nel suo alito. Hightech aveva trascorso le successive 12 ore su una panca di legno nella camera di sicurezza per gli ubriachi, unico uomo bianco in mezzo a un coro di lamentosi navajos con la nausea, una cosa che non gli era affatto andata giù. Ovviamente non posso ucciderlo, pensò Hightech. Quello che voglio è soltanto dargli una lezioncina, dare un po' di lavoro al suo odontoiatra. Magari spaccargli una costola, rovinargli la serata, niente di drastico o irreparabile. Il problema è se riuscirò a farmi riconoscere, riuscirò a fargli tornare in mente il nostro precedente breve incontro. Invece, oppure lo lascerò a terra sul marciapiede a domandarsi chi cazzo ero e che cosa cazzo volevo. Si rendeva conto che Hall non sarebbe stato in grado di riconoscerlo. Come poteva uno sbirro che ogni notte raccattava decine di ubriachi vagabondi e sfaccendati ricordare il basso, oscuro e normalissimo George Washington Hightech, che inoltre nel frattempo era considerevolmente cambiato, diventato più pesante, grande e peloso. Un'autopattuglia Flagstaff City Police si avvicinò lentamente con le luci di posizione e si fermò di fronte alla casa di Hall. Bene, in macchina c'era solo un uomo, molto bene. L'uomo scese dall'auto, indossava abiti civili, non l'uniforme. Hightech lo guardò nell'oscurità a distanza di mezzo isolato, incerto. L'uomo si avviò verso l'ingresso della casa ed entrò senza nemmeno bussare. Doveva essere Hall o anche un rapinatore solitario. All'interno della casa si accesero delle altre luci. Hightech infilò la pistola nella cintura, saltò giù dalla jeep, indossò un impermeabile per nascondere la pistola e superò camminando la casa di Hall. Le tende erano tirate, le veneziane abbassate, dall'interno non poteva vedere nulla, il motore dell'auto della polizia era acceso. Hightech fece un tentativo sulla portiera, sbloccata, girò l'angolo. Sotto gli occhi e le luci dei lampioni e proseguì lungo un vialetto acciottolato che conduceva dietro la fila delle case. I cani abbaiavano in mezzo ai bidoni delle immondizie, i fili per stendere i panni, i girotoni dei bambini. Contando le porte, vide attraverso la finestra della cucina l'uomo che stava cercando. Ancora giovane, una bella faccia, irlandese al 100%. Hall. Lo sbirro stava bevendo una tazza di caffè con una mano e palpeggiando le chiappe della moglie con l'altra. L'aria di lei era compiaciuta, l'aria di lui distratta. Una tipica scena domestica. Il cuore d'acciaio di Hightech si sciolse leggermente lungo i bordi. Non c'era molto tempo. Trovò un passaggio non recintato tra le case e tornò di fretta in strada. L'auto della polizia era ancora lì, con il motore acceso. In qualunque momento Hall avrebbe potuto mettere giù quella tazza di caffè e uscire, il bastardo assenteista. Hightech si infilò dietro il volante dell'auto e senza accendere i fari la fece scivolare pian piano verso il primo incrocio. Il monocolo verde della radio della polizia mandava riflessi dall'oscurità sotto il cruscotto. L'altoparlante diffondeva un traffico costante di tranquille voci maschili che discutevano di sangue, rottami, disastro. Uno scontro frontale sulla Mountain Street. Un bel colpo per Hightech. La tragedia di routine gli regalava forse un altro minuto prima che Hall potesse lanciare l'allarme. Svoltando l'angolo e dirigendosi a sud per la Main e i binari della ferrovia per Santa Fe, si preparò all'attacco. Hall aveva certamente una ricitrasmettente in casa. Nel frattempo Hightech mise a punto il piano. Le cose da non fare quella notte. Per cominciare decise di non schiantare l'auto della polizia contro l'ingresso del municipio. In secondo luogo, incrociò un'autopattuglia che procedeva nella direzione opposta. La gente al volante gli fece un cenno di saluto, Haidak fece un cenno di risposta. Alcuni pedoni sulla strada lo videro passare, lui controllò nello specchietto retrovisore. L'altra auto della polizia si era fermata a un incrocio in attesa di un semaforo verde. We'll be right back. erano i Sepultura con il brano Criminals in Uniform. Ora si ritorna alla controinformazione, ultima notizia di controinformazione, e poi dopo si fa l'ultima lettura dei Sabotatori. L'ultima notizia di controinformazione riguarda la Bolivia, dove c'è un aggiornamento sul compagno Henry Zegarrundo. Leggiamo il testo dei compagni del sito Solidarietà Negra. Ancora una volta, per il caso per cui è accusato il compagno Henry Zegarrundo, ci doveva essere un'udienza del processo programmata per il 17 marzo 2014, che è stata rinviata. È imbarazzante dare sempre questo tipo di notizie, ma le diffondiamo comunque affinché si capisca l'assurdità della farsa giudiziaria nel territorio dominato dallo Stato boliviano. E anche se festeggiamo la libertà diurna di Henry, disprezziamo con la stessa intensità la procedura assurda della macchina giudiziaria. Non si può fermare nessun aspetto della vita seguendo il ritmo legalista. È urgente la non collaborazione con questi processi statici di incriminalizzazione e punizione. Forza a compagno Henry, a tutti i milioni di guerrieri che lottano dai luoghi di sequestro e le loro molteplici forme di punizione. Solidarietà Negra, poi sotto c'è il link per arrivare al sito dei compagni boliviani. Ricordiamo anche che Henry Zegarrundo proprio pochi giorni fa gli era stato concessa la libertà diurna, torna in carcere solo la sera per andare a dormire, quindi c'è un piccolo risultato è stato raggiunto. Speriamo che al più presto riesca a dormire anche a casa sua. Ora ci ascoltiamo un brano di Chain Lab con il brano 21esimo secolo, 21 Century, di Chain Lab per l'appunto, e poi dopo si torna qui e si fa l'ultima lettura di Sabotatori per oggi. Impact in the radiofonico si interruppe. Poi, Haidak, si udì la voce di Hall. A tutte le unità 1099, a tutte le unità 1099, a auto 12 1035, 1035, ripeto, a tutte le unità 1099, a auto 12 1035, rispondete prego, KB34 remoto. Buon controllo, pensò Haidak. Come poteva dimenticare quella voce, l'isteria irlandese fredda e controllata? Dio mio, se adesso mi odia, odia qualcuno in ogni caso. Ci fu un frastuono di scariche elettrostatiche mentre più voci cercavano di rispondere contemporaneamente. Poi tutto tacque. Una voce si propose forte e chiara. KB5, KB6, KB5. Abbiamo visto auto 12 un minuto fa, si dirigeva a sud sulla Second Street da Federal and Mountain. 10-4 KB6, tutte le unità mobili tranne auto 4 si recchino immediatamente nell'area centro. 10-99, 10-99, auto 12, KB34, KB5. Haidak sorrise. Stanno richiamando Hall, adesso è sotto i riflettori. KB34, KB5, rispondete passo. KB34, 10-9, 10-2, 10-9, che c'è? Dove cazzo sei Hall? KB34, remoto. Allora chi sta guidando l'auto 12? Beh, non lo so. Haidak staccò il microfono, pigiò il bottone della trasmissione e disse: sono io, Zoticoni, voglio solo divertirmi un po' alle vostre spalle. A spalle di questa città da due soldi, ok? KB34 e chiudo, passo. 10-4, rispose il centralino. Ci fu una pausa. Chi sta parlando, prego? Haidak riflette un momento. Rudolf, disse. Ecco chi sono. Un'altra pausa. KB5 qui è KB6. Vai avanti. Abbiamo soggetto in vista, si sta ancora dirigendo verso sud. 10-4, preparatevi a intercettarlo. 10-4, 10-4, merda! Disse Haidak nel microfono. Prima dovete prendermi, testine di cazzo. E rimpianse per un momento che non ci fosse un modo per poter ricevere o ascoltare ciò che lui stesso stava trasmettendo. Naturalmente stavano registrando tutto su un nastro alla centrale. E per un istante pensò a qualcosa tipo impronte vocali, l'analogo audio delle impronte. Forse avrebbe sentito la sua trasmissione più tardi, una volta finito tutto, in un tribunale dell'Arizona, insieme ai giurati convocati per l'occasione. Che Dio li accecasse tutti! La voce della radio. Il soggetto è avvisato che tutte le trasmissioni di radio sono monitorate dalla Commissione Federale per le Comunicazioni e che l'abuso o il cattivo uso dei sistemi di trasmissione della polizia è considerato un reato. Fanculo la Commissione Federale per le Comunicazioni e fanculo pure te, sbirro di Flagstaff. Ti piscerei in testa anche se dovessi salire sopra una sedia. Sorridendo nell'oscurità, sfrecciando tranquillamente per le strade semivuote, rimase in attesa di una risposta, ma non ce ne fu nessuna. Poi si rese conto che stava ancora stringendo in mano il microfono, tenendo premuto il pulsante della trasmissione, e così facendo stava mettendo la sordina all'intero canale. Riagganciò il microfono e si concentrò sulla guida. Il traffico radiofonico riprese. Con il suo imperturbabile scambio di voci maschili calme, dure, laconiche. Sai che ti dico, pensò. Andiamo dove ci sono i binari. La ferrovia per Santa Fe era solo un isolato di distanza. Le sirene alle spalle. La distruzione davanti. Luci rosse lampeggiavano all'incrocio. La campanella dell'allarme risuonò. Haidak rallentò. Il treno si stava avvicinando. Le barriere di legno avevano cominciato a scendere, oscillando. Passò sotto la prima e inchiodò la macchina al centro del passaggio a livello. Guardò da entrambe le parti nel buio rombante. Vide la luce rotante di una locomotiva che avanzava. Udì il tuono delle ruote d'acciaio. Sentì il raglio della tromba del diesel. Nello stesso istante udì l'urlo delle sirene e vide nello specchietto retrovisore i flash azzurri delle luci correre verso di lui a due isolati di distanza. Haidak abbandonò l'auto di Hall lì nel crocicchio. Prima di andarsene, tuttavia, prese una pistola, un casco antisommossa e una torcia a 6 batterie, portandoli con sé nella notte. mentre si allontanava con passo spedito dalla scena del delitto, le braccia cariche e il cuore che pulsava gioia, sentì, sotto lo stridio dei freni e il lamento dei clacson, uno schianto metallico, solido, riccamente prolungato e di grande soddisfazione. Si voltò indietro. La locomotiva di testa con i freni ad aria che fischiavano, spinta alle spalle da 3 unità motore supplementari e dall'impeto di un lungo treno merci, correva sui binari. Con il suo muso di ferro si infilò nel corpo dell'autopattuglia, stritolando ferro, acciaio, in una pioggia di scintille. L'automobile rotolò una volta. Il serbatoio della benzina si spezzò, esplose in fiamme viola e zafferano. Un falò itinerante che, nel suo tragitto, illuminò in successione una fila di vagoni su un binario morto, il retro del Montezuma Hotel, camere da $2 in su, alcuni pali del telegrafo, un cartellone, benvenuti a Flagstaff, cuore del pittoresco nord, e l'obsoleta, dimenticata, antica torre dell'acqua. Hutchinson, Topeka and Santa Fe, deposito di Flagstaff. Tenendo ben stretti i suoi trofei, Haidak trotterellò attraverso vicoli bui come inchiostro, aggirò le pistole, la legge, le auto della polizia che strepitavano per la città come vespe impazzite, raggiunse la salvezza della sua jeep e si allontanò dalla città nell'oscurità di velluto, illeso. E quella notte dormì bene, fuori nella pineta, vicino a Sunset Crater, 30 km a nord-est, avvolto nel suo largo sacco a mummia, imbottito di piume d'oca leggero, per l'appunto come una piuma, che è caldo come il ventre materno, sotto lo sfavillio diamantino di Orione, il luccicore delle 7 sorelle, l'orsa maggiore, mentre stelle cadenti tracciavano languide fiamme attraverso la troposfera. La dolcezza di tutto questo, la soddisfazione di un lavoro ben fatto, sognò casa sua, ovunque essa fosse, cosche seriche. Ovunque conducessero, un albero più verde del pensiero in un canyon rosso come ferro. Alzandosi prima del sole nell'alba azzurro argentea, si preparò un caffè con sulla sua minuscola stufa rudimentale. Pastiglie, pastiglie, pastiglie, ho bisogno di pastiglie, cantò il mantra mattutino di Haidak. Attraverso i pini desolati vide una sfera di idrogeno incandescente, troppo accecante da poter fissare, salire improvvisamente da oltre le creste corrugate del deserto dipinto. Una gradevole musica di flauto gli giunse da non si sa dove, il tordo eremita. Rimettiti in marcia, George, verso nord. E allora fece rifornimento alla sua stazione di servizio preferito, il Sacred Mountain Trading Post. Firmò le petizioni, salviamo la Black Mesa, diciamo basta alle miniere a cielo aperto, e acquistò adesivi. Potere rosso, pensa Opi, per i suoi paraurti che appiccicò sovrapponendogli al grido di guerra del precedente proprietario. Buona giornata, babbeo. Dalla montagna sacra scese nell'alba rosata, entrò nel recinto del Little Colorado, nel rosa pastello e marrone cioccolato e giallo ombroso del deserto dipinto, terra dei tronchi pietrificati, terra dell'indiano con il glaucoma, terra dei tappetini fatti a mano con vegetali secchi, delle cinture con le borche d'argento sabbiato e di aule di tribunale intasate da cause per l'assistenza sociale, terra dei vecchi dinosauri, terra di tralicci dell'alta tensione che marciano a ranghi compatti, macinando chilometri su chilometri attraverso le pianure desertiche come mostri di 30 metri provenienti da un'altra galassia. Haidak aggrotta le sopracciglia mentre apre la prima confezione da 6 della giornata. Non ricordava che ci fossero così tanti tralicci. Filavano parallele all'orizzonte in grandiosi colonnati, legati insieme dalle esili e concave linee di cavi dell'alta tensione caricati con energia proveniente dalla diga del Glen Canyon, dalla centrale Navajo, dalle centrali di Four Corners e Shiprock, allungandosi poi come una piovra verso sud e ovest, diretti al fiorente sud-ovest e in California. Le città sfavillanti divoravano le risorse dell'entroterra indifeso. Gettando la sua lattina di birra vuota dal finestrino, Haydak corre verso nord, attraverso il territorio indiano, una terra inaridita su cui si incrociavano nuove linee elettriche, con il cielo offuscato dal fumo delle centrali elettriche, le montagne sventrate dalle miniere a cielo aperto, le pendici grattate fino alla morte, erose dagli scavi, villaggi, derelitti di baracche tirate su con blocchi di calcestruzzo di scorie e stamberghe di carta catramata sono allineati lungo l'autostrada. La tribù sta crescendo, fertile come un brodo di coltura, dai 9.500 del 1890 ai 125.000 di oggi. Fecondità, prosperità, vino dolce e suicidio, di te cantiamo. Il vero problema con questi dannati indiani, riflette Haydak, è che non sono migliori del resto di noi. Il vero problema è che gli indiani sono altrettanto stupidi e ingordi e codardi e ottusi di noi bianchi. Su questo pensiero apre la sua seconda birra, si presenta alla vista il Grey Mountain Trading Post. Indiani stanchi riposano appoggiati al muro assolato. Una squaw con la tradizionale blusa in velluto di cotone si accuccia vicino agli uomini, solleva le sue voluminose e lunghe gonne per pisciare sulla terra. Lei sorride, gli uomini ridono. La Grand Canyon Junction è ormai vicina. Il traffico ostacola la sua impaziente avanzata. Di fronte a lui una minuscola signora con i capelli azzurri scruta l'autostrada al di là del volante. La testa spunta appena sopra quel cruscotto. Che ci fa qui? Di fianco a lei siede un vecchietto. Targa dell'Indiana sulla loro Oldsmobile. Mamma e papà in gita. Attenti a non superare la velocità di sicurezza di 70 all'ora. Hai la cringhia. Muoviti, signora, oppure levati dalle palle. Dio mio, come diavolo gli è venuto in mente di tirare fuori quella cosa dal garage e di venire qui? 3 chilometri al Junction Trading Post. Una volta, fermandosi lì per farsi una birra, aveva sentito il padrone confidare ad un impiegato mentre gli mostrava una coperta navajo fatta a mano. L'ho pagata $40. La scosta, ma andando al core, aveva bisogno di soldi. La venderemo per 250. La strada affondava davanti a lui, scendendo nella valle del Little Colorado nel deserto dipinto. Dai 2000 metri della sommità del passo ai 900 del lungo fiume. Lanciò un'occhiata all'altimetro montato sul cruscotto, lo strumento confermava. Qui c'era la deviazione per South Rim, Grand Canyon. Anche adesso, a maggio, il traffico turistico sembrava intenso, un flusso stabile di acciaio, vetro, plastica e alluminio sgorgava dal raccordo gran parte ed effluiva verso Flagstaff, ma una discreta quantità prendeva in direzione opposta a nord verso Utah e Colorado. Dove vado io? Pensò. Dove vado io? Stanno andando tutti dove vado io? Non possono farlo. Bisogna levare di mezzo quel ponte, presto, tutti i loro ponti, presto, tutti quanti, presto. Stanno guidando le loro macchine di latta verso la Terra Santa, non possono farlo, non è legale. C'è una legge che lo vieta, una legge superiore. Beh, anche tu ci stai andando, ricordò a se stesso. Vero, ma non mi devo occupare di una faccenda importante, inoltre faccio parte di un'elite. E in ogni caso la strada ora c'è, tanto vale usarla. Ho anche pagato le mie tasse. Sarei un matto a scendere e a mettermi a camminare per farmi sbattere in faccia da tutti gli altri turisti, i loro assurdi gas di scarico. O sbaglio? Sbaglio? No che non sbaglio. Ma se volessi camminare, e quando verrà il momento lo farò, perché mi gira? Camminerei da qui alla baia di Hudson, andata e ritorno, e lo farò. Haydak proseguì alla massima velocità con la marcia più alta e i muzzi sbloccati, stabilmente di resto a nord-nord-ovest, oltre The Gap and Cheddar Ridge, verso Icho Clive, Shinumo Alter, Marble Canyon, Vermilion Cliff e il fiume, il Colorado. Il fiume, fino a che, raggiungendo la vetta di una lunga e ultima ascensione, poté godere la vista, finalmente, della terra dove stava andando, la regione del suo cuore che si stendeva davanti al di là di lui, esattamente come lui l'aveva sognata per 3 anni, sperduto nella guerra della giungla. Procedette quasi con cautela per lui giù per la lunga e tortuosa strada che conduceva al fiume, 30 chilometri di asfalto e 1200 di dislivello. Doveva vivere almeno un'altra ora. Marble Canyon si apriva sotto di lui, un nero crepaccio simile allo sbadiglio dentellato provocato da un terremoto nel deserto grigio spento. Le Icho Cliff si allungavano in direzione nord-est, verso un intaglio scuro del monolito di arenaria dove il Colorado rotolava dalle profondità del plateau. A nord e a ovest del tavolato si alzavano il Paria Plateau, poco conosciuto, dove non vive nessuno, e i 50 chilometri del Vermilion Cliff. Hydak, sentendo tornare il buon umore, tracannando un'altra birra e esaurendo la sua confezione da 6 di Flagstaff, scese verso il fiume percorrendo la stretta strada a una sicura e tranquilla velocità di 110 km orari, urlando qualche canzone sconclusionata in faccia al vento. In realtà era un'autentica minaccia per gli altri automobilisti, ma lui si giustificava in questo modo: se non bevi non guidi, se bevi guidi come un demonio. Perché? Perché la libertà, non la sicurezza. La libertà è il bene supremo, perché le strade pubbliche dovrebbero essere aperte a tutti, i bambini in triciclo, piccole vecchiette incollate al volante di Eisenhower Plymouth, lesbiche assassine alla guida di Caravan Mac da 40 tonnellate, niente favoritismi, niente patenti, nessuna dannata regola per la strada, il diritto della strada per tutti. Beato come un maiale nella merda, questo è Hydak che torna a casa, curve come forcine per i capelli, in prossimità del ponte, rallentare 15 miglia all'ora, le gomme che stridono come gatti in amore, la prima curva affrontata con la trazione integrale, inserita, un'altra, urlo di gomme, puzzo di freni a tamburo bollenti, il ponte compare, frena duro, scala le marce, gioca di punta, attacco sui pedali di freno, frizione, acceleratore, è un ricamo, vietato sostare sul ponte, dice il cartello, lui si ferma in mezzo al ponte, spegne il motore, ascolta per un istante il silenzio, il sospiro del fiume che scorre 100 metri più sotto. Hydak smonta dalla jeep, cammina verso la balaustra del ponte e guarda giù il Colorado. Il terzo fiume più lungo d'America, mormora, accarezzando le sue sponde sabbiose, turbina, intorno ai massi caduti, fila verso il mare, sotto le pareti calcaree del Marble Canyon. Risalendo la corrente oltre la piega si trova lì Sphere, il punto d'imbarco reso obsoleto dal ponte su cui si trova Hydak. A valle, 80 km lontano dall'acqua, c'è il punto in cui il fiume entra nel Grand Canyon. Alla sua sinistra, a nord e a ovest, le Vermilion Cliff brillano rose come cocombre nella luce del sole splendente, un'infilata di promontori verticali di arenaria, ciascuno con un nobile profilo misterioso, solenne e disumano. La vescica duole. L'autostrada è silente e deserta, forse il mondo è già finito, è il momento di svuotarlo quel rene, di spillare quella bevanda. Hydak si tira giù la cerniera lampo e disegna un arco di 100 metri di Schiltz filtrata che si rovescia attraverso lo spazio fino al maestoso corso d'acqua sottostante. Non c'è sacrilegio, solo un giubilo tranquillo. Pistrelli svolazzano nelle ombre del canyon, un grande erone azzurro volteggia sopra il fiume. Adesso sei tra amici, George Washington Hydak. Dimenticando di rinchiudere la cerniera dei pantaloni e lasciando la jeep al centro della carreggiata vuota, cammina fino alla fine del ponte e si arrampica sopra una montagnola sull'orlo del canyon, un punto di osservazione privilegiato sul deserto. Allora si piega sulle ginocchia e raccoglie una manciata di sabbia rossa, la mangia. Buona per la pancia, ricca di ferro, buona per lo stomaco. Di nuovo in piedi fronteggia il fiume, i ripidi dirupi, il cielo, la massa fiammeggiante del sole che scende come una nave oltre un fondale di nuvole, l'uccello di Haydak, flaccido e l'ingrinzito dimenticato, penzola dalla sua patta aperta sgocciolando qualcosa, si punta solidamente sulla roccia divaricando le gambe e solleva le braccia verso il cielo, i palmi rivolti all'insù. Una gioia grande e solenne percorse le sue ossa, il sangue, i nervi, i tessuti. Penetra in ogni cellula del suo corpo, alza la testa, tira un respiro profondo. L'airone del canyon, uno stambecco sulla cingia più alta, un coyote magro sulla riva dell'altra parte del fiume sentono l'ululato, la canzone di un lupo che sale nell'immobilità del crepuscolo e si espande nel vuoto della sera desertica, un ululato lungo e prolungato, profondo e pericoloso, selvaggio, arcaico, che sale, sale, sale in quell'aria quieta. E qui nell'area quieta si chiude per oggi la della cameretta. Dalla cameretta con l'aria vizzata si chiude la diretta d'azione di lunedì 31 marzo. Ricordiamo ancora una volta gli indirizzi per radiazione, la mail a radiazione@autistici.org per mandare qualsiasi tipo di comunicato, scritto, quello che volete scrivere, anche consigli per i libri da leggere su radiazione. Il sito è radiazione.org, dove potete leggere la controinformazione aggiornata quotidianamente, dove potete ascoltare la radio attraverso il lettore flash in sidebar, dove potete riascoltare le vecchie dirette d'azione attraverso i podcast. La radio trasmette su anarchia.net. L'appuntamento prossimo con la diretta d'azione è per venerdì 4 aprile con controinformazione e musica. Voleva aggiungere qualcosa? Chi si offende è un fedente.